Vangelo di San Luca, capitolo undicesimo. Ed avvenne che, essendo egli in orazione in un certo luogo, com'ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, dacci di giorno in giorno il nostro pane quotidiano, e perdonaci i nostri peccati, poiché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non ci esporre alla tentazione». Poi disse loro: «Se uno di infra voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: Amico, prestami tre pani, perché m'è giunto di viaggio in casa un amico e non ho nulla da mettergli dinanzi. E se colui dal di dentro gli risponde: Non mi dar molestia, già è serrata la porta e i miei fanciulli son meco in letto, io non posso alzarmi per darteli, io vi dico che quand'anche non s'alzasse a darglieli perché egli è amico, pure per l'inopportunità sua si leverà e glieli darà quanti ne ha di bisogno. Io altresì vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi picchia. Chi è quel padre tra voi che, se il figliuolo gli chiede un pane, gli dia una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dia invece una serpe? Oppure, anche se gli chiede un uovo, gli dia uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figlioli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domanderanno. Or egli stava cacciando un demonio che era muto, ed avvenne che quando il demonio fu uscito, il muto parlò, e le turbe si meravigliarono. Ma alcuni di loro dissero: «È per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni, che egli caccia i demoni». Ed altri, per metterlo alla prova, chiedevano da lui un segno dal cielo. Ma egli, conoscendo i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno diviso in parti contrarie è ridotto in deserto, e una casa divisa contro se stessa rovina. Se dunque anche Satana è diviso contro se stesso, come potrà reggere il suo regno? Poiché voi dite che è per l'aiuto di Belzebù che io caccio i demoni, e se io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebù, i vostri figliuoli, per l'aiuto di chi li caccian essi? Perciò essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è per il dito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Quando l'uomo forte e ben armato guarda l'ingresso della sua dimora, quel che è possiede è al sicuro, ma quando uno più forte di lui sopraggiunge e lo vince, gli toglie tutta l'armatura nella quale si confidava e ne spartisce le spoglie. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va intorno per luoghi aridi cercando riposo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa donde sono uscito, e giuntovi la trova spazzata e adorna. Allora va e prende seco altri sette spiriti peggiori di lui, ed entrato ad abitarla, l'ultima condizione di quell'uomo diviene peggiore della prima». Ora avvenne che, mentre egli diceva queste cose, una donna di fra la moltitudine alzò la voce e gli disse: «Beato il seno che ti portò e le mammelle che tu poppasti». Ma egli disse: «Beati piuttosto quelli che odono la parola di Dio e l'osservano». E affollandosi intorno a lui le turbe, egli prese a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Ella chiede un segno, e segno alcuno non le sarà dato, salvo il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per i Niniviti, così anche il figliuolo dell'uomo sarà per questa generazione». la regina del mezzodì, risusciterà nel giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché la venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui v'è più che Salomone. I niniviti risusciteranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui v'è più che Giona. Nessuno, quando ha acceso una lampada, la mette in un luogo nascosto o sotto il moggio. Anzi, la mette sul candeliere affinché coloro che entrano veggano la luce. La lampada del tuo corpo è l'occhio. Se l'occhio tuo è sano, anche tutto il tuo corpo è illuminato. Ma se è viziato, anche il tuo corpo è nelle tenebre. Guarda dunque che la luce che è in te non sia tenebre. Se dunque tutto il tuo corpo è illuminato, senza aver parte alcuna tenebrosa, sarà tutto illuminato, come quando la lampada ti illumina col suo splendore. Or mentre egli parlava, un fariseo lo invitò a desinare da lui, ed egli entrato si mise a tavola. E il fariseo, veduto questo, si meravigliò che non si fosse prima lavato avanti il desinare. E il Signore gli disse: «Voi altri farisei nettate il di fuori della coppa e del piatto, ma l'interno vostro è pieno di rapine e di malvagità. Stolti, colui che ha fatto il di fuori non ha anche fatto il di dentro? Date piuttosto in elemosina quel che è dentro al piatto, ed ecco ogni cosa sarà netta per voi. Ma guai a voi, farisei, poiché pagate la decima della menta, della ruta e d'ogni erba e trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciarle altre. Guai a voi, farisei, perché amate i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Guai a voi perché siete come quei sepolcri che non si vedono, e chi vi cammina sopra non ne sa niente». Allora uno dei dottori della legge rispondendogli disse: «Maestro, parlando così fa ingiuria anche a noi». Ed egli disse: «Guai anche a voi, dottori della legge, perché caricate le genti di pesi difficili a portare, e voi non toccate quei pesi neppure con un dito. Guai a voi, perché edificate i sepolcri dei profeti, e i vostri padri li uccisero. Voi dunque testimoniate delle opere dei vostri padri e le approvate, perché essi li uccisero e voi edificate loro dei sepolcri. E per questo la sapienza di Dio ha detto: io manderò loro dei profeti e degli apostoli, e ne uccideranno alcuni e ne perseguiteranno altri, affinché il sangue di tutti i profeti sparso dalla fondazione del mondo sia ridomandato a questa generazione, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria che fu ucciso fra l'altare e il tempio. Sì, vi dico, sarà ridomandato a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, poiché avete tolta la chiave della scienza, voi stessi non siete entrati ed avete impedito quelli che entravano». E quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a incalzarlo fieramente e a trargli di bocca risposte a molte cose, tendendogli dei lacci per cogliere qualche parola che gli uscisse di bocca.